Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Ferriere, Appennino Piacentino, luglio 2012. Uccide l'amica del cuore perché era troppo perfetta. Amiche per sempre. L'abbiamo scritto sul banco di scuola, con il pennarello indelebile, mentre la prof parlava della guerra. Siamo ancora amiche, vero Diana? Mi sembra di sentire la tua voce appena prima di dormire, quando la stanza è gelida. Provo ad ascoltarti, ma il silenzio grida la tua assenza. Sei sempre stata perfetta, tu. Anche quando eravamo piccole, avevi sempre una soluzione ai miei guai. Muovevi le tue mani eleganti e con un gesto deciso dicevi «Risolveremo anche questa, vedrai». Trovare una soluzione ai miei problemi ti faceva sentire viva. Giudicare le mie scelte era il pane quotidiano per te. Dispensavi consigli a raffica, una lista esasperante di frasi, raccomandazioni, avvertimenti. Chiodo scaccia chiodo, se non ti cerca non ti vuole. Dai retta a me, uno così meglio perderlo che trovarlo. Se voleva star con te l'avrebbe già lasciata, se ci teneva sul serio non si comportava così. Se lo ami davvero lo lasci maturare. Non vale la pena stare dietro a un imbecille del genere. Tu hai solo una fissa. La tua è pura ossessione, non sei veramente innamorata di lui. È un bambino, lascialo crescere. Se uno ti pensa, ti cerca. Non ha più niente da dirti, cerca di pensare ad altro, buttati su una persona migliore, meriti di meglio. Non è lui il ragazzo giusto per te. Se son rose fioriranno, porta pazienza, stai su, cerca di non pensarci. Mi immergevo nelle tue frasi per consolarmi, ma quando tornavo a galla stavo peggio di prima, mi soffocavano. Tu te ne stavi sull'altare della tua vita perfetta, con il tuo ragazzo, il bel lavoro da impiegata statale, la casa con il giardino e le rose da far crescere. Io galoppavo verso i famigerati 30, rincorrendo uomini sbagliati, spiegazzando sogni che poi volavano via. Stavo male. Avevo perso il lavoro e lui mi aveva lasciata. Non ti volevo vicino. Non avevo bisogno di te a ricordarmi di quanto fossi imperfetta. Sei stata tu a insistere per fare quel maledetto weekend insieme. Sei stata tu a convincermi a staccare da tutto e rifugiarmi in montagna con te. Sei stata tu a volermi trascinare ancora una volta davanti all'evidenza dello schifo in cui navigavo. Eravamo in montagna da 2 giorni e la tua presenza mi infastidiva. Non volevo dirtelo, perché siamo amiche per sempre. Ricordi? Ci saresti rimasta male. Tu vivevi per mettere a posto i miei disastri. Stavi cucinando tu, cucini sempre tu, perché non ti fidi di me. Io potevo aiutarti, così mi sarei distratta un po'. Nella mia testa c'era questo animale che si agitava. Forse era lì da un sacco di anni, ma si era svegliato solo quel giorno e diceva «Stai zitta!». Ma tu parlavi e parlavi e non la smettevi di muovere quella bocca perfetta mentre le tue mani perfette preparavano la cena perfetta. E allora ti ho detto «Taci!». E tu ti sei girata e mi hai guardata stupita perché io non ti ho mai chiesto di stare zitta. Non l'ho mai fatto, ma quante volte l'avrei voluto dire «Zitta!». Che parlo io, zitta per una volta, che ascoltano sempre solo te, Diana, e fanno sì con la testa, e allora faccio sì con la testa anch'io, perché Diana è perfetta, perché Diana è mia amica. L'animale nella testa ha mosso una zampa e io ho preso il coltello che stava sul tavolo. Taci, ti ho detto ancora. Ma tu hai urlato. Non volevo, Diana, ma non sopportavo più la tua voce. Dovevi smettere di parlare, dovevi solo fare silenzio. Invece hai iniziato a gridare e l'animale nella mia testa ti è saltato addosso. Non lo potevo più fermare. L'animale dentro la mia testa ti ha messa a tacere. Zitta, Diana, per una volta, che adesso parlo io. Poi ho preso il volo. E mentre volavo, mentre mi lasciavo cadere nell'aria, le mie mani sapevano di sangue e sale e respiravo un attimo di libertà, mi sono chiesta: ma poi, saremo ancora amiche? Amiche per sempre? Silvia Montemurro in libreria con L'inferno avrà i tuoi occhi, Newton Compton Editore, 293 pagine, 9,90 euro.